Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti. Franco Piantrini, autore di questo programma, Claudio Schettone in redazione, Alberto Scaltretti in regia. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Tornate un'altra volta, 800 24 00 24, per tutti quelli che vogliono intervenire. Io oggi voglio ringraziare pubblicamente mio amico Pierluigi Pardo. Grazie Pier. Vedi che? No, perché mi hai procurato un contatto che sta qui fisicamente da me. Cioè, che un tartellone, ha... sai cosa? Mi ha... Così, aperto un mondo che mi fa impazzire, di cui conosco poco e intorno al quale sono particolarmente ignorante, come in molte altre cose peraltro, che c'è quello dei... Cioè, presentalo tu. Beh, è un uomo, un mito, dispiace che la radio non consenta di apprezzarne, diciamo, anche il fisico scultoreo, no? Che, insomma, diciamo, una delle principali caratteristiche, no? In realtà è Max Sardella, che è un social media manager di molti calciatori, di qualche giornalista, di... un esperto di comunicazione, di social network, insomma, diciamo che meritava una presentazione sicuramente più intelligente della mia, però insomma è veramente un uomo sveglio. Buongiorno Max. Ciao Max. Ciao Carlo e ciao Pier, troppo gentile, un saluto a tutto il pubblico, di tutti i convocati. Perché... Che calciatori segui? Ma io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire dei calciatori importanti come Mirko Vucinic e Alessandro Florenzi, che sono stati loro poi a insegnarmi questo mestiere, perché poi è il calcio, il campo, che ti dà gli spunti per costruire l'immagine online. No, perché poi sai, allora tu curi l'immagine online di diversi giocatori, tra i quali quelli che hai citato, no? Perché mille volte io parlo sulla scorta di tante vicende più o meno divertenti, inutile dire che Maurizio Icardi potrebbe essere un idolo assoluto per tutti noi, no? Perché ci ha dato un miliardo di spunti. No, però seriamente, un sacco di volte ci siamo trovati a dire: oh, ormai questa è la fonte principale per avere le notizie dai calciatori, dagli sportivi in generale, perché non dimentichiamo che, ad esempio, come saprai benissimo, Armstrong è stato tra i precursori, no? di questa divulgazione del pensiero via Twitter. Diciamo che il presupposto è questo: prima i tifosi cercavano i propri campioni, i propri idoli per strada, allo stadio oppure al campo d'allenamento, invece adesso lo cercano sul web, e il modo migliore per incontrare i calciatori sul web appunto sono i social network. Ora ogni calciatore ha a disposizione un proprio ufficio stampa, in un minuto si può aprire un canale Twitter, un canale Facebook, Instagram o Google Plus e parlare con i propri tifosi. E quello che dicevi tu, Icardi, è uno degli esempi più importanti del panorama social, nel bene o nel male, no? Sì, certo. Perché è riuscito in un certo modo comunque a crearsi questo canale di comunicazione in cui ci racconta tutto quello che fa. No, sì, si possono discutere, troppo, chiaramente i contenuti, lo stile, la strategia, ammesso che ci sia di comunicazione di Icardi, ma non c'è dubbio che insomma... Anche tu, Pier, sei un top player social. Sì, tu hai scatenato. Sì, fai i tuoi selfie. Ho appena instagrammato, fra l'altro, la foto della maglietta di tutti i convocati di Radio 24 2014 del Mondiale. Grande. Su Instagram, solo che non riesco, adesso volevo condividerla su Twitter, ma mi dà poca connessione, diciamo, in questa situazione. Possiamo fare qualcosa? Appena chiudiamo, risolviamo il problema. Sono arrivate le magliette? Sono arrivate. Ma me ne dai una? Ce n'è una per me? Certo. Chiaramente tu hai una taglia, tu che hai una L. Sì, io spero nella XL, cioè io devo dimagrire per mettermi la XL. Questa è la situazione. Senti, ma comunque, secondo me è una figura estremamente importante questa, perché prima parlavo con Max, insomma, per i giocatori anche il mondo della comunicazione in rete è particolarmente scivoloso, no? Quindi io direi per il loro bene posso raccontarti meglio, certo, proprio per questo discorso dell'argomento spinoso, quello che è successo qualche giorno fa dopo il pareggio Crystal Palace Liverpool. Sì. Beh, c'è stata una squadra di Premier molto importante, che è il Tottenham, sì, che ha fatto un tweet prendendo in giro il Liverpool. Sì. ed è stato subito cancellato. Io sono riuscito a fare uno screenshot e poi a pubblicarlo. Quindi si fanno anche questi gravi errori anche da parte di grandi società come può essere il Tottenham. Bisogna stare sempre molto attenti a utilizzare i social network. Mi pare che il Tottenham abbia smentito, no, qualcuno ha utilizzato il nostro account e quindi è due volte colpevole, perché vuol dire che anche subire un attacco social è grave di una società importante come se sono stati disattenti o bugiardi. Questo non l'abbiamo ancora capito. No, poi c'è anche tutta quell'altro aspetto, quell'altro risvolto particolarmente interessante anche abbiamo visto Juventus-Fiorentina, degli sfottò ufficiali, e questa è una cosa inedita, è uno sviluppo inedito. Ragazzi, ci vediamo un attimo per il traffico. 800-24-0024 numero verde, poi Pardo ci dice anche chi sarà il prossimo allenatore del Milan, questo tra poco. Non scrivo niente particolare, solo c'è gente che scrive di tutto. Io non so se avete visto, meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Un buongiorno, una buona sera e un po' di foto, basta. Tutti convocati. Sicuramente nel periodo del mondiale dovremmo avere un regolamento, l'avremo come l'abbiamo avuto agli europei. Sappiamo che i social network sono importanti, sappiamo che il pubblico vuole direttamente sentire il parere del giocatore, questo va anche bene nel periodo della stagione, ma forse nel periodo del mondiale va un po' regolarizzata questo strumento. Questa è una dichiarazione, altro aspetto estremamente interessante, caro Max Sardella. Una dichiarazione di ottobre di Prandelli parlava dell'utilizzo, di come verrà, diciamo, regolamentato l'utilizzo dei social network ai mondiali. Ma io poi ho avuto la fortuna di parlare con Albertini proprio qualche mese fa, e quello che dice Prandelli è non vietare ma regolarizzare. Albertini mi disse vietare, come fai a vietare? Cioè, vietare non... sì, assolutamente. Disse: se io porto Bonucci a fare una conferenza stampa magari alle 2, non mi aspetto poi un tweet di un altro calciatore magari alle 10 con un'altra dichiarazione che non è conforme nella comunicazione dell'Italia. Quindi diciamo non che... caso Balotelli Balotelli, che posso dirti che secondo me è il modo migliore per utilizzare Twitter, cioè spontaneità, grande faccia tosta, e la voglia di dire davvero quello che pensa, quindi senza filtri. Sì. Come fa Pardo, uguale. Come fa Pardo, quindi Pardo è come Balotelli su Twitter. Hai capito? Sei come Balotelli. Ma no, allora il tema, guarda, è interessantissimo, e devo dirti che secondo me poi è strettamente collegato al concetto, a quello che facciamo noi nella nostra attività giornalistica, nel senso che comunque alla fine il punto di vista onesto, a costo di prendersi qualche rischio, è sempre comunque la cosa più interessante che c'è. Nei social network questo elemento diventa ancora più importante, perché se io sui social network devo sentire delle dichiarazioni di facciata simili a quelle che sento in certe interviste, non servono a niente, no? Quindi è chiaro che il social network è figo soprattutto quando spariglia, quando hai una reazione a pelle di qualcuno. Ci fu il famoso caso di Rooney e di quel tweet in Barcellona Real Madrid di Coppa del Re di un paio d'anni fa, con Pepe che fece un intervento abbastanza scomposto e lui gli diede, non mi ricordo se dell'imbecille o dell'assassino, dell'idiota, una cosa del genere. È chiaro che la forza del social network è questa, che tu magari sei a cena, stai bevendo un bicchiere di vino di troppo, sei lì, non sei completamente in controllo, hai voglia di dire una cosa di così di prima acchito, e la dici. È chiaro che se Rooney avesse dovuto fare un'intervista per dire, anche ammesso che lo pensasse veramente, che Pepe era un idiota, avrebbe dovuto convocare il giornalista, parlare, cioè avrebbe avuto mille momenti per poter ripensare ed evitare questo tipo di esternazione. Quindi la bellezza dei social network secondo me è assolutamente questa, e anche nella loro pericolosità nel non essere politicamente corretta. Questo è evidente, altrimenti non sarebbero così interessanti. Voglio dire. Cari ascoltatori, certamente poi parleremo, poi ci trasformiamo da tutti convocati nella seconda ora in un giorno in pretura, in questura, in prefettura, perché vabbè, ieri non bastavano più le manette, Manette dappertutto, cioè sono andati a fare la scorta. No, poco nel calcio, insomma. No, nel calcio no, ma nella pallacanestro tanta roba. Ad sì, esempio, certo. Pallacanestro tanta roba, lasciando stare poi gli la altri. Politica. Sì, sì. Parlando tra l'altro di top player di social, Mourinho è sui social network, quindi ci ricordiamo. Come è messo? Beh, Mourinho è solo su Facebook. Sì. Ha una pagina, è lui perché è una pagina verificata. Questo infatti è un altro aspetto. La verifica dei social network. Poi volevo introdurre anche il discorso di Soccer Mini, abbiamo parlato sì, prima, sì, sì. Proprio per la tutela e la sicurezza dei social network come fonti, da cui prendere tipo sì. L'esempio più eclatante, molte riviste hanno ripreso le dichiarazioni di Baggio su Twitter. Lo diciamo adesso, posso permettere di utilizzare, Baggio non è su Twitter, Baggio è solo su Facebook, ha un suo sito, e quindi non riprendete i tweet di Roberto Baggio perché non è lui. Non è lui. Poi c'è stato anche il caso UEA, no? Anche il caso UEA, e ecco perché poi ho deciso di creare Soccer Me, proprio per fare una sorta di ansa dei social soccer con 2k.me, dove lì trovate tutti i profili ufficiali del calcio, allenatori, agenti e giornalisti. Quelli fasulli non ci sono. Quelli fasulli non ci I sono. Cosiddetti fake. I cosiddetti fake che stanno rovinando un po' Sì, il fake più famoso che mi viene adesso in mente è Pogba. Pogba ha tipo 200.000 follower su Twitter, ma non è lui. Non è lui. Non è lui. 200.000 non è lui. Non è lui. 200.000 presi per non culo lui. Così sì. Brutalmente. Sì. Pensa un po'. Anche Cassano non c'è. Mi ricordo qualche anno fa che ci fu un incredibile entusiasmo per l'arrivo, per l'approdo di Giorgio Porrà su Twitter, ma non era vero, insomma. No, bisogna stare molto attenti. C'è sempre, lo diciamo, in questo momento mi affianco al lavoro dell'ottimo Sardegna. Guarda, qui di Cassano sto cercando su Twitter, c'è Antonio Cassano, Cassano Official, Official Cassano, ecco, nessuno di questi. Cassano un altro. Io tra l'altro ho fatto la top social, la top non social team, cioè gli 11 sì. calciatori non presenti sui social network. E un altro che non è presente sui social è Totti. Totti ha un sito, parla lì ogni domenica, quindi viene ripreso, ma non è sui social network. Un altro che non è sui social network è Handanovic e Zanetti. Destro non è sui social network, ma Cassano e Totti, poi è l'attacco stellare, no? L'attacco non social. L'attacco non social. Invece volevo fare una piccola introduzione sui top player invece social che abbiamo noi. In Italia sicuramente il calciatore top player è Kakà. Quello, cioè, top player intendi quello che ha più, Che ha più audience, che ha più follower, fan e seguaci su Instagram. Poi abbiamo invece Benitez, che è l'allenatore più social della rete. Sì. Come giornalisti, e qui Pier magari mi tirerà le orecchie, ma più i follower che in questo momento è Gianluca Di Marzio, che poi è un mio caro amico, che ha più follower. Però poi Pierluigi. Perché sono tutti curiosi, no? Di sapere. A parte che è un amico. Sì, no, stiamo ovviamente scherzando. Poi Gianluca Di Marzio è il giornalista più social in questo momento. Ma Gianluca, tra l'altro, magari poi lo possiamo anche sentire, ci può anche telefonare. Ma da questo punto di vista è veramente. Forse sta diventando troppo tecnica questa discussione, però. È quasi un ulteriore sviluppo di questo mestiere, di questa assolutamente perché insomma di fatto Gianluca Di Marzio su Twitter è come fosse una rete televisiva, come fosse un giornale adesso senza offendere né le reti televisive né i giornali, ma adesso guardo qua al volo, cioè è uno che nella vita ha fatto, cioè ogni due minuti ha una notizia, no? Ha fatto 52.200 tweet, adesso non so da quanti anni sta lì, vuol dire che ogni giorno e quindi ha veramente è un bellissimo esempio secondo me di social news 2.0, cioè il fatto di ascoltare la rete e comunicare con ragazzi loro, che poi può diventare una malattia, eh. Cioè io sono però secondo me adesso non entro nel merito perché non lo so, però appunto magari Max ci sa dire qualcosa di più. Gianluca ormai ha il sito, ha una serie credo di collaboratori che gli danno notizie, cioè io spero per lui e anche per il suo sonno e per sua moglie che non siano tutti i suoi tweet, perché altrimenti vorrebbe dire che non dorme mai, Vive però... Gianluca vive per la notizia e fa bene, perché è il massimo esperto di calciomercato, quindi ha un po' sta, secondo me, anche poi dopo il discorso di Twitter, che lui comunque è riuscito a diventare una delle fonti più importanti del calciomercato, ma viene seguito anche da altri account stranieri. Assolutamente è uno strumento di informazione. Oggi è venerdì, c'è una tradizione fra i twitteristi che è quella del Follow Friday, cioè di consigliare persone da seguire. Devo dire che insomma è imprescindibile, cioè secondo me se a uno gli piace il calcio non può non seguire Di Marzio, che comunque è una notizia da così non, come non poi, può seguire poi... anche Pastorello, che è il gente più social che abbiamo in Italia. Fammi sentire gli ascoltatori, io voglio sentire se sono veri, cosa seguo, se sono veri o sono dei fake. Franco da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono onorato di intervenire nella trasmissione più intelligente che tratta di argomenti sportivi. Io volevo intervenire per quanto riguarda gli allenatori italiani, tutti, nessuno escluso, che sono pronto sempre a lamentarsi delle perdite di tempo degli avversari. Sì. E poi quando la squadra loro è in vantaggio fanno la stessa cosa e si rimettono in panchina. Sì. Sarebbe ora di sentire qualcuno che dice che sarebbe ora di introdurre il tempo effettivo nel calcio. Sì, ma che tempo effettivo no, però ci sono altri strumenti già esistenti che permettono di evitare perdite di tempo, Franco, secondo me, cioè dovrebbero essere gestite diversamente certe situazioni. Noi in Italia siamo campioni del mondo assoluti in questa specialità, no Pier? Cioè, la storia della palla, del fumo della palla fuori, questo finto fair play, eccetera, eccetera. Senti, ma chi è il prossimo allenatore del Milan? Il prossimo allenatore del Milan sarà? Spalletti. No, non ci credo. No, non lo so, ci sono varie ipotesi. La sensazione è che Seedorf, anche se dovesse andare in Europa League, difficilmente potrà conservare questa panchina. Quindi poi ci sono tutte le altre soluzioni, c'è sicuramente Inzaghi. Montella ci credi? Perché insomma... Montella piace. Montella e Spalletti secondo me sono abbastanza simili, cioè non come tipo ovviamente di persona, però sono certamente due scelte molto della stessa linea, no? Allenatori italiani piuttosto giovani che fanno un buon calcio, che cercano un'idea molto estetica del calcio, che potrebbero entrare in questo discorso. Insomma, il Milan da sempre cerca di fare un, poi non sempre ci riesce, ma insomma ha l'ambizione di riuscire a giocare a pallone in un certo modo. E quindi sono, da questo punto di vista, sono filosoficamente in linea con il Milan degli ultimi 25 anni. Sì, certo, poi insomma, leggendo tra le parole di Berlusconi, Montella interessa, non c'è ancora niente, sto ancora, visto che stiamo parlando di messaggi, parole, tweet, eccetera, eccetera, questo si presta a diverse interpretazioni. 800240024, mi tengo, parlo ancora un po', Max Sardella qui con me, vi aspetto naturalmente dopo la borsa. Ma sì, stiamo pensando sicuramente tanto, nel periodo del mondiale avremo un regolamento interno abbastanza rigido. Tutti convocati. Allora, torniamo, Max Sardella qui con me, mi sta aprendo l'universo di Twitter. Guarda, io devo cogliere l'occasione perché qui tutto il tuo pubblico ci chiede quando andrai su Twitter. Esatto. Io sono pronto ad aprirti un profilo su Twitter. Sì, però fai tu, io non sono capace. Però sono pronto, possiamo fare dal vivo, che apriamo il tuo profilo. Giorgio Spada scrive, dite a Genta, scusate, non è molto arrivo, tirare fuori le palle e aprire un profilo. Ecco, quindi questo è il tipo di umore. La prossima volta, dovessi tornare qui in trasmissione, parliamo del tuo profilo. Io ti faccio diventare matto, io faccio come Icardi, giuro, io faccio delle robe così. Quindi nudo, perfetto. Lo diciamo a chi, per chi non lo sapesse, 40 minuti fa ha pubblicato una foto mezzo nudo dicendo gli è arrivato il vestito di un popolare marchio per un matrimonio che non credo sia il suo, ma insomma, ecco. E invece a proposito di questo c'è la questione Serra, inteso come Michele Serra, che insomma negli ultimi giorni, perché noi siamo un programma alto e pop, no? Quindi parliamo anche Michele Serra, che chiede al falso Michele Serra che gli ha rubato l'identità su Facebook e pare anche su Twitter, di lasciarlo libero. Insomma, ci sono, a proposito di casi appunto di fallimenti, diciamo, dei social network, c'è anche questo, insomma, che non riguarda un calciatore, ma riguarda uno scrittore giornalista molto popolare. Poi inizia... c'è il caso di Ventana, no? Ventana che lasciò Twitter per rimanere solo su Facebook perché era, diciamo, devastato. Anche Giovinco ha lasciato i social. Dopo la brutta stagione dell'anno, cioè il finale di, dell'anno scorso, ha avuto degli insulti e chiuse la sua storia con i social network. Sì, io gli... Però lì non ci fu Conte a difenderlo, quindi. Roberto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare una considerazione, dato che questa volta riesco anche ad avere la possibilità di sentire il signor Pardo, che faccio complimenti per Tiki Taka. Grazie. Volevo fare una premessa. Io sono milanista, vorrei parlare per quanto riguarda delle questioni societarie del Milan, e volevo dire a tutti quanti, perché comunque sento molte persone dire che noi milanisti siamo frustrati, io dico questo: ma come fanno a dire queste persone, juventini, interisti quello e quant'altro, come fanno queste persone a dire che noi siamo frustrati se noi siamo stati competitivi negli anni 90 e siamo stati con coppe, portando a casa coppe nel 2000, dopo il 2000 abbiamo portato a casa coppe e scudetti, anni fa, non ci dimentichiamo che 3 anni fa il Milan è stato campione d'Italia. Quindi prima di dire frustrati è una cosa, io credo che sia una parola grossa. Però lei è di Castetto, lei è cagliaritano. È di provincia di Olbia. Forse mi sembrava un dialetto più campidanese, chiedo scusa. Che dobbiamo rispondere? Il calcio, insomma, si sa, cambia. Magari frustrati meno felici, cioè, voglio dire. Felice. Se c'è un tifoso oggi che negli ultimi 20 anni può dire di aver goduto, gioito, vinto di tutto, è il tifoso del Milan. Sì. Secondo me più di tutti, adesso senza fare le classifiche, ma quindi ci sono anche per i migliori, ci sono dei momenti di difficoltà. Sì, ma uno può accettare, secondo me, di stare in galleria se puoi vedere la luce là in fondo. Senti, ma abbiamo, caro Max Sardella, il campione del mondo, anzi un record, cioè un record, un primato comunque, perché è il primo convocato attraverso i social network. Chi sarà? Proprio me l'hai detto tu prima, cioè il campione del mondo chi è? È Gianluca Di Marzio. Ciao Gianluca. Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti. Come ciao va? Max, ciao Carlo, ciao Gianluca. Allora adesso io voglio fare un test durante questo intervento telefonico di Marzio. Vorrei che tu facessi almeno un paio di tweet. Io voglio verificare l'essere multitasking del dottor Di Marzio. Poi verificheremo, insomma, alla fine di questo intervento vedremo. Però non tweet banali, cioè non ascoltatemi adesso a tutti i convocati. Anche ragionati, però intelligenti. No, voglio notizia di mercato, anche della Juventus. Appena scritto sul... Guarda che noi stiamo controllando, ha appena scritto qualcosa sull'Udinese. Vero o no? No, ma io intanto devo ringraziare tanti ragazzi che collaborano con me, non sono clonato ancora, né voglio essere clonato. Molti si chiedono come faccio a scrivere magari durante le trasmissioni, sotto la scrivania o davanti alla telecamara. Devo dire che Max lo sa, ci sono tanti giovani ragazzi e io sono fortunato ad averli trovati e spero di dare sempre loro grandi opportunità per mettere in mostra il loro talento e le loro qualità, che collaborano per il mio sito e che quindi chiaramente mi danno una mano anche nel divulgare, nel diffondere tutte le notizie, sia quelle che do su Sky che quelle che do attraverso il mio sito. Quindi non sono soltanto io che twitto, ma ci sono anche tanti ragazzi che lo fanno per me, e per questo vi devo ringraziare. Vabbè, ringraziato la squadra, adesso dici è un grande capitano, però grande capitano. È un grande capitano. Allora vediamo quanti followers in tempo reale, vediamo. Sì, cioè, quanti ne ho più di te? Una volta eravamo quasi pari, poi hai mollato un po', Ma io ogni tanto stamattina ho twittato. Però riconosciamo a Pierre che è un maestro dei selfie, quindi no, ma adesso anch'io ho i miei 200. Ma sai cos'ha Pier? Che non ha la pazienza di rispondere a tutte le critiche che arrivano, perché io a volte mi ci metto, vado a crearmi degli imbuti con personaggi a cui non varrebbe la pena sinceramente di rispondere. Però vedo che se tu invece rispondi e se tu interagisci anche con chi magari non si aspetta, no, la tua risposta, e dopo si calmano, no, ma scusa, ma non volevo dire questo, no, ma volevo sottolineare quell'altro, allora riesci a riportare poi le analisi in temi più tranquilli e più civili. Sì, no, questo è vero, è vero. Ogni tanto qualcuno provoca, poi tu gli dici, gli spieghi la cosa, gli fai ciao e lui vedi che aggiunge ai preferiti il tuo tweet e ti ringrazia. Ti dice sei un mito. Questo è. Ma no, ma questa, guarda, questa componente qui adesso è bella. Per esempio, tra l'altro posso dire, perché loro non lo diranno mai, però sia Pier sia Gianluca sono stati al Festival del Giornalismo e tutta la folla li ha acclamati come riferimenti ed esempi. Rockstar, sono delle rock star del giornalismo. È fisico, però, quelle sono dinamiche diverse, no, a parte le battute. No, invece una cosa che secondo me è interessante in questa puntata un po' laterale da veramente la Festival del Giornalismo è che anche in telecronaca, secondo me, senza ovviamente distrarsi molto, perché la telecronaca è un lavoro di essenzialmente di grande concentrazione, però le notizie arrivano, quindi non tanto i feedback riguardo poco, ma durante la partita, se succedono delle cose, ci sono per esempio dei profili straattendibili, aggiornatissimi, di statistiche che ti danno dei numeri interessanti magari su delle situazioni che sono successe e che non potevi immaginare prima all'inizio della partita, no? Perché molte cose le puoi preparare prima, sì, ma sì. Chiaramente se uno sbaglia due rigori nella stessa partita, magari c'è già il sito di statistica che ti dà che 5 minuti dopo ti dice l'ultima volta che era successo, quanti rigori aveva sbagliato, cioè, più le reazioni. Io mi ricordo sempre un Barcellona semifinale del mondiale per club, una partita che facevamo, si giocava in Giappone, la facevamo in studio da Milano, quella del famoso infortunio di Villa che poi saltò l'anno dopo il mondiale, e con la connessione wifi e con il profilo Twitter arrivavano in tempo reale, lui si è fatto male intorno alla mezz'ora del primo tempo, sono arrivate le reazioni di tutto il calcio mondiale, sì, Ronaldo, Ibrahimovic, tutti, forse Ibrahimovic no perché non credo fosse su Twitter, ma arrivavano una marea di reazioni, è arrivato il comunicato ufficiale del secondo tempo del Barcellona, il comunicato medico del Barcellona, cioè No, ma si arriva prima, questo è indubbio, lì si arriva prima, è anche una questione di velocità. Prima di salutarvi ragazzi, Gianluca Di Mazza non penserà di farla franca, perché Mauro su Twitter ovviamente domanda, ma perché non chiedete a Di Marzio di Conte? Perché aspettiamo che ci sia l'incontro oggi per capire soprattutto se Conte avrà, non dico sbollito, così una situazione mentale così di stress, ma anche se avrà voglia di ripartire, cioè se avrà gli stimoli giusti per ripartire dopo aver vinto praticamente tutto in Italia a ritmi assolutamente incredibili e senza la possibilità di fare chissà quali investimenti, cioè lui lo sa benissimo, la società è stata chiara con lui, direi anche con i tifosi c'è un piano industriale da rispettare, quindi non ci sono 100 milioni, 150 milioni di euro a dire ok, questi sono sul tavolo, compriamo tre giocatori da 35 milioni e proviamo a vincere la Champions, no, e quindi dovranno, guardandosi in faccia, capire se c'è ancora la possibilità di ripartire insieme, magari provando a cambiare un pochino i giocatori della rosa, provando a trovare qualcosa di diverso, ma dipende soprattutto da Antonio, perché la Juventus vuole assolutamente tenerlo, quindi vediamo l'incontro di oggi. Il Milan, no, perché volevo chiederti se ha ragione Pardo quando dice che sarà secondo lui Spalletti. Ci sono stati dei contatti con Spalletti, ci sono stati dei contatti con Montella attraverso sempre gli agenti e non i detti interessati, ci sono stati probabilmente anche dei contatti sempre con l'entourage di Donadoni. Io credo che non sia stata presa ancora una decisione definitiva, Galliani ha voluto e vuole secondo me capire pro e contro dei vari candidati, quanto guadagnano, quanto vogliono, quanto serve per fargli la squadra e poi andrà da Berlusconi e dirà questo vuole tot, questo ci costa tot, Inzaghi magari la soluzione è più semplice perché conosce già l'ambiente, guadagna di meno, non c'è bisogno di fare chissà quei tipi di investimenti, poi dopo sarà Berlusconi a prendere la decisione definitiva. Sì. Grazie Gianluca. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti. Ciao Gianluca. Ciao. Io saluto anche Max Sardella e Pardo, devo... Grazie Carlo. Io rimango, dai, sentiamoci un altro quarto d'ora. No, Max, mi raccomando. Grazie Pier, grazie a tutti, un salutone al vostro pubblico. Grazie mille per l'invito. A presto, poi parliamo al prossimo fake social. Sì. Anzi, quando c'è un fake interessante, ti famoso, scrivo. Dimmelo, ti prego. Va bene, promesso. Grazie. Strade, poi torniamo. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Tutti convocati. Sedor Fresta? E questo lo decide il consiglio di amministrazione, lo decidiamo tutti insieme, ci siamo detti, alla fine di questo campionato. Quindi non c'è niente di sicuro, però rischia di non restare, quindi a questo punto c'è il rischio che possa andare via. Ma ha un contratto con noi che prevede che sia l'allenatore del Milan per i prossimi 2 anni. Bellissima questa, lo decide il consiglio d'amministrazione, Pierluigi. Sì. Questa è bellissima, diciamo il consiglio d'amministrazione tutti insieme, No, prima di Marco e Paolo, Marco da Milano e Paolo da Verona, sono abbastanza preoccupato per, ma dobbiamo forse essere un po' preoccupati per questo Roma-Juventus all'ora della merenda di domenica, oppure no secondo te? Io spero che succeda quello che spesso succede quando ci sono grandi aspettative di violenze, no? E di solito, ma insomma non è una regola assoluta, i problemi principali ci sono in partite di medio rischio, sì. quando il livello di rischio è massimo, mi sembra che un po' anche per banale prudenza da parte dei facinorosi ci sia un atteggiamento un po' diverso, quindi io spero che questo possa contribuire evidentemente a evitare problemi. Detto questo, io penso che se c'è adesso un problema di rapporto evidente fra una frangia di tifosi della Roma e una frangia di tifosi del Napoli, serve una rivoluzione culturale, perché non è che possiamo adesso pensare che Roma e Napoli non si incontrino più, che giochino appunto a Reykjavik fino al 2025. Quindi insomma, la speranza è che in questo momento ci sia, il discorso è sempre lo stesso, dai, cioè che comunque quando ci sono problemi bisogna già trovare la forza di fare la pace, certamente, ma magari anche di fare qualcosa di concreto, oltre alla pace. Lo Stato deve fare la sua parte, applicando le pene. Insomma, l'intervista di oggi del poliziotto sulla Gazzetta è un'intervista abbastanza indicativa, non so se l'avete letta, però sì. Insomma, ecco, gente che per pochi soldi al mese si vede costretta a rischiare la propria incolumità personale, spesso non riceve neanche un grande riconoscimento, nel caso specifico addirittura si è trovato in quella situazione per caso e viene attaccata a prescindere semplicemente perché ha una divisa. Insomma, la generalizzazione da una parte e dall'altra è completamente sbagliata. C'è anche un sacco di strumentalizzazioni su questi discorsi. A me ha indignato ovviamente l'applauso fatto a quelle persone che sono state condannate per l'omicidio di Aldrovandi. Chiaramente mi indigna sen sapere che ci sono stati dei poliziotti che li hanno applauditi, perché quelle persone sono state condannate. Allo stesso modo mi indigna vedere che la memoria di Raciti è stata non onorata come meriterebbe una persona che è morta. Che io non ce la faccio, io questa suddivisione ideologica di tifosi, di hooligans contro poliziotti, non riesco. Le vittime sono violenti. Ma sai perfettamente che è così, infatti l'abbiamo detto, insomma, anche quella maglietta di quel delinquente, cioè in curva, in cui si è dovuto andare a parlare. Sì, anche se posso dire una cosa, una cosa scorretta sul Daspo. Che al di là del fatto che chiaramente in un mondo normale non dovrebbero esserci bomboni, non dovrebbero esserci capi ultra, capi curva, eccetera, eccetera, ma se tu Digos sabato sera per giocare la partita, in maniera secondo me alla fine anche realistica, vai a chiedere la pace, no? Vai a fare un accordo con questo signore, poi dopo 2 giorni gli dà il Daspo, cioè è una cosa che fa ridere, sì, cioè, perché allora o tu lo riconosci come un interlocutore, però ribadisco, guarda, io sono sempre più convinto di questo, io sono convinto che si debba essere realisti, cioè l'altra sera c'era una situazione esplosiva e l'unico modo che c'era in quel momento per evitare che 60.000 persone potessero far casino e trovarsi nei casini, perché poi la grande maggioranza di queste persone li avrebbe subiti questi casini, era spiegare bene le cose e, se non vogliamo usare la parola trattare, usiamo la parola informare, ma insomma creare le condizioni migliori affinché tutto lo stadio potesse accettare con serenità quello che era avvenuto. Sì. L'unica cosa è che non dovevi farlo davanti alle telecamere, questa è l'unica cosa secondo me. Sì, questo è certamente un aspetto molto importante, anche se non l'unico, perché io non sono d'accordo con quello che ha detto il Premier, con questi non bisogna andare a parlare. Io sarò integralista da questo punto di vista, probabilmente sbaglio, però non riesco a vederlo in maniera diversa. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire per quanto riguarda i social network. Sì. Secondo me quando un calciatore spontaneo e diretto è una cosa sicuramente bella, però io sono un dirigente, sono un forte aziendalista e credo che tutta la barca debba muoversi in un'unica direzione, per cui credo che anche i calciatori debbano seguire un codice etico che è chiaramente imposto dalla società, per cui loro possono dire chiaramente quello che vogliono, dire dove sono, quello che fanno, cosa stanno mangiando, quali sono i loro gusti, però nel momento in cui vanno a scrivere un qualcosa che può ledere quella che è l'immagine della società, lo spogliatoio, che secondo me non deve essere concesso fare. È come quando Balotelli va in discoteca quando non può, cioè è la stessa cosa. Loro sono dei professionisti e devono essere professionisti in tutto. Guarda, io sono perfettamente d'accordo su questo, perché secondo me c'è un discrimine che è quello di anche dell'immagine di chi ti paga lo stipendio, del tuo datore di lavoro, eccetera eccetera, quindi ci devono essere qualche limite ci deve essere, e la vicenda di Riccardi secondo me è abbastanza emblematica da questo punto di vista, l'abbiamo detto anche troppe volte. Sentiamo anche Paolo da Verona e poi chiudiamo qui la prima ora. Paolo, buongiorno. Buongiorno, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Ecco, intervengo anch'io sui social network, nel senso che io sono una persona che lavora nei social network, quindi sentivo la discussione molto interessante prima e volevo aggiungere un po' il mio contributo, nel senso che è importante il numero di fans, ma poi il parametro principale per capire se queste cose che si scrivono hanno impatto sulla rete è andare a vedere qual è l'engagement, cioè quanto interesse c'è sul contenuto. Quindi si potrebbe aprire tutto un altro scenario di analisi comportamentale di come questi strumenti possono essere interessati e utilizzati in modo specifico, sia dai singoli giocatori che dalle società, cioè, certo. c'è tutto un mercato dell'analisi che è estremamente estremamente interessante. Ecco, volevo dare questo taglio tecnico. Io la ringrazio oggi, professoroni, Pierluigi, vi ringrazio tutti perché ne ho preparato il punto. Secondo me è proprio questo, che queste sono tutte materie nuove, ma poi devo dire sono temi molto interessanti, perché sono temi che chiaramente riguardano e che sfiorano il mondo del calcio, ma che alla fine parlano di cultura della comunicazione, di società, di media o media, insomma, più o meno tradizionali. Quindi io credo che sia un tema molto interessante. Non a caso devo dire la verità che negli ultimi anni nel Festival del giornalismo di Perugia, che insomma è l'appuntamento principale da questo punto di vista dell'anno, quasi molti dibattiti sono sui social network, il valore che hanno, i rischi che comportano, perché è chiaro che è una forma completamente nuova che non sostituisce quella dei media tradizionali, ma che li può affiancare in certi momenti, e quindi l'utilizzo di tutto questo è molto interessante, ma certe volte è problematico. Certo, non deve essere un territorio selvaggio, perché sennò diventa... Comunque, di tutto devi farti infatti un profilo Twitter. Vediamo. Oppure fai come Mughini, che dice io trovo assolutamente assurdo avere un profilo Twitter per un motivo semplice, perché io per scrivere devo essere pagato. C'è mica torto. Una sintesi perfetta. Ciao Pier, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Sentiamo lunedì, grazie Pierluigi Pardo. Oh ragazzi, noi invece stiamo qui un'altra ora come sempre, 800 24 00 24, numero verde, e poi partono le manette dopo il GR, state con noi. Voy como favorito, pero también hay otros corredores que hay que tener muy en cuenta, y lo hemos visto ahora en la rueda de prensa. Estoy muy contento de poder participar en este Giro de Italia y poder luchar por la victoria. Sicuramente Ferdinando Minucci e Stefano Sammarini erano i capi di questa organizzazione criminale, perché loro davano le disposizioni, davano gli ordini ai loro accoliti. Mi dispiace, assolutamente mi dispiace, ma non sono tristi perché ho fatto tutto quello che potevo per andare a giocare il mondiale. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. stiamo arrivando a dei risultati intanto già estremamente importanti, perché non si registravano arresti di questo tipo nella città di Siena da moltissimo tempo, quindi già questo mi sembra un risultato estremamente importante, soprattutto per la tipologia di reati contestati ai soggetti indagati e alla carica che gli stessi rivestono non solo a Siena ma anche a livello nazionale. Parliamo comunque del presidente della Lega Basket. Sì, una delle esigenze cautelari che il giudice ha ritenuto idonee per consentire gli arresti è proprio stata quella di un possibile inquinamento probatorio. Questo sta a testimoniare che le indagini sono ancora in corso e ci stiamo muovendo anche su una terza fase che vede un'analisi dei bilanci dal punto di vista civilistico per comprendere delle condotte che ci avvicinano alla bancarotta fraudolenta. Noi abbiamo delineato un'organizzazione criminale che abbiamo definito tale non a caso, perché abbiamo ipotizzato non solo dei reati tributari ma, come ha anticipato anche prima il dottor Nastasi, dei reati collegati alla normativa fallimentare, sui quali però al momento vige il segreto istruttorio e quindi non possiamo approfondire. Si parla di un'organizzazione criminale strutturata perché c'erano comunque dei ruoli ben precisi e ben definiti che abbiamo individuato. Sicuramente Ferdinando Minucci e Stefano Sammarini erano i capi di questa organizzazione criminale, perché loro davano le disposizioni, davano gli ordini ai loro accoliti affinché procedessero poi con lo svolgimento materiale dei reati e il ritorno di contante. Sicuramente loro erano le persone che davano gli indirizzi operativi, tanto che erano appellati dai loro subalterni come capi. Allora, posto che secondo me il principio della presunzione di non colpevolezza è un fondamentale caposaldo di civiltà, ieri ho usato una parola che è shock, perché io da amante dello sport e di questo sport in maniera particolare, quello della pallacanestro, sono rimasto scioccato nel vedere il presidente della Lega Basket in manette, portato via dalla Guardia di Finanza. Quella che abbiamo sentito ora è Ida Perri, capitano della Guardia di Finanza di Siena. Ebbene, sono rimasto scioccato per quanto è accaduto. Minucci, Mensana, manette. Poi oggi leggo nei dettagli qual era questo tipo di organizzazione, presunta, ovviamente la giustizia farà il suo corso e bla bla bla, però leggo che con questo sistema architettato il club pluricampione d'Italia, che ha vinto gli ultimi 7 titoli, 21 titoli negli ultimi 12 anni, ebbene con questo sistema il club avrebbe sottratto alla tassazione circa 27 milioni di base imponibile, 15 milioni di IVA, 3 di ritenute previdenziali, 18 di redditi non dichiarati. Ci sono diversi giocatori, l'elenco lo trovate su tutti i giornali, che sono indagati per aver preso del denaro in nero, per dirla brutalmente. Werther Pedrazzi ne ha scritto anche oggi sul Corriere della Sera. Ciao Werther. Ciao Carlo, buongiorno a tutti i tuoi, buon pomeriggio anzi a tutti i tuoi condividi la parola scioccato? No. Mi veniva da ridere, sì. Data la confidenza e l'amicizia la correggerei con sciocco, sì. Perché io non adesso... ho sorpreso, attenzione. Perché, esatto, certo, è uno shock. E c'è da rifletterci sopra, ma tantissimo. C'è una congiura o una congiuntura di tempi. Questo potrebbe essere, come dici tu, lo shock che tira una riga per una ripartenza con metodi completamente diversi e più adatti al mondo dello sport. Sì, però posso dire una cosa? A certe volte lo sport, misteriosamente, per congiunzione astrale, eccetera, in certe settimane, in certi momenti, entra in un tunnel, no? Molto cupo. Abbiamo avuto una settimana in cui abbiamo parlato di quello allo stadio con cui si va, il capitano del Napoli va a trattare, e adesso vedo il presidente della Lega Basket in manette, e ogni volta che entriamo in una situazione così cupa diciamo, speriamo ma che no, serva a tirare una riga, che no, a ricominciare. Non c'è molta speranza perché guarda, la coincidenza è, cioè, Tangentopoli, sì. Abbiamo addirittura detto lo sport è un riflesso della società, certo. Avevamo detto che certo. Veniva una repubblica e veniva la seconda repubblica e contestualmente all'arresto del presidente di Lega Basket noi vediamo ricomparire come gli no? stessi nomi di prima, no? ma è una cosa assolutamente inquietante, ma questo mi si ricollega al fatto che cosa ti resta di tutto questo. Oggi sui giornali questa mattina si strappano le vesti presidenti che ma scusa, che cosa deve fare un presidente? Non se l'aspettavano, sono sconvolti, sì. Vabbè, ma che cambino mestiere, sai, quando se loro hanno letto le carte, poi magari l'avvocato ci aiuterà e soprattutto un dirigente se interpreta il momento era quello che tutto attorno a Monte dei Paschi stava diventando un territorio libero di caccia, ma tu non potevi immaginare quello che stava per succedere, sì. Se avevi letto le carte, sì. Quindi c'è un po' in me di non delusione, proprio disperazione, perché probabilmente e lasciamelo dire, perché in poche righe non si riesce magari a essere polemici fino in fondo, ma la mia non è polemica, è veramente frustrazione. E tutti dicevano che il presidente di Siena era il migliore, sì. Sicuramente, e l'hanno letto perché volevano fare tutti come lui, e questo è il problema, e sì. Lui era più bravo di loro probabilmente, sì. Ecco la grande amarezza. Insomma, ci sono 14 presidenti di Serie A su 16 che hanno eletto Minucci alla guida della Lega Basket, tra l'altro incarico che doveva formalmente ancora assumere, sarebbe stato presidente della Lega formalmente e ufficialmente dal 1° di luglio. Gli unici due club, questo per la cronaca, che non avevano votato per Minucci erano la Virtus Bologna e la Virtus Roma, questo tanto per essere chiari. E da allora è nato, ecco, il contesto, il brodo di incultura, e da lì è nato tutta una serie di attacchi a Renato Villalta, che simpatico o antipatico aveva semplicemente detto voto contro perché i suoi metodi non sono quelli della Virtus e i miei, sì. Punto. Sì. E da lì Villalta è diventato lo scemo del villaggio. Sì. Oggi, Carlo, è antipatico parlarne, perché tutti ti dicono, adesso, senno di poi, perché non l'avete detto prima? No, ce lo impedivano, perché non si poteva dire, perché eri una voce fuori da un coro. Chi avrebbe potuto dire... A dire la verità, guarda, Verte, un anno e mezzo fa eravamo qui io e Luca Chiabotti, abbiamo parlato di questi sospetti, di queste voci, di queste in alcuni casi di questi fatti di Siena, eccetera, e non, diciamo che non siamo stati accolti benissimo da quelle parti, perché questa è la verità. Ma anche quotidianamente episodi di esclusione proprio, vabbè, ma ovvio, ma scusa, io insisto su questo, ma secondo te con tutto quello che si diceva, ma perché da parte di qualcuno sono venute fuori segnalazioni alternative, vuoi Stefano Domenicali, vuoi Andrea Bodi, vuoi Maurizio Gherardini, sì, che lo bruciano sempre, poverino, sì. Come il prezzemolo, lo mettono dappertutto, poi dopo questo inciso, sì. No? Ma perché non si può dire che oggi quell'operazione così anticipata, io vorrei sapere perché hanno sentito il bisogno di fare l'elezione del presidente a febbraio, l'8 per l'esattezza, inizio di febbraio, quando il mandato di quell'altro scadeva al 30 certo, di giugno, certo, a parte. Certo. Ma, non possiamo dire che hanno superato ben oltre la soglia del sospetto varcando quella della prudenza, leggendo sì. Senti, è arrivato l'avvocato Mattia Grassani, principe del foro di diritto sportivo, che saluto e ringrazio. Buongiorno avvocato. Buon pomeriggio a tutti. Perché c'è una serie di quesiti, anzi, cioè, le faccio fare subito una domanda da Werther Pedrazzi, che è da stamattina che dice: quando arriva l'avvocato glielo chiedo cosa. Buongiorno, buon pomeriggio intanto avvocato. Devo tremare subito allora. Sì, assolutamente. Comincio a tremare. No, assolutamente, se mi permette la battuta, quando arrivate voi, quando abbiamo bisogno degli avvocati, vuol dire che lo sport ha varcato qualche confine. E la domanda era proprio questa, perché adesso si parla di una terza fase di bancarotta fraudolenta, ma quello che a me interessava, perché poi gli appassionati, riducendo al nostro piccolo mondo, si chiedono: ma gli tolgono gli scudetti Siena o no? Ecco, qual è la discriminante per cui un fatto di, e mi perdoni avvocato che mi esprimo in termini impropri, un fatto di, diciamo così, di giustizia ordinaria passa e diventa anche passibile una questione di giustizia sportiva, di giustizia sportiva e di un processo di revisione del passato anche. Esatto. Qual è il discrimine? Qual è questo discrimine per cui può diventare anche oggetto di un provvedimento da parte della Procura federale, della FIP? Beh, innanzitutto partiamo col dire che l'indagine in corso attiene a reati fiscali e reati fallimentari, per cui quello che è sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica riguarda violazioni di norme tributarie, di creazione di fondi neri e di violazioni di norme appunto che attengono alla fiscalità. Quindi questo è un ambito abbastanza, almeno per il momento rispetto all'indagine condotta dai magistrati, ben chiaro e delineato, che per quanto riguarda gli effetti rispetto all'ordinamento sportivo e alla giustizia sportiva, potrà portare, credo, allo Stato a sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti, quindi delle persone fisiche che si sono macchiate di queste violazioni, però per il momento a me sembra prematuro un processo di revisione, delineare scenari di possibile revoca di scudetti, sì. Perché le ipotesi a cui faceva riferimento lei, quelle diciamo canoniche, classiche, che purtroppo quando scendiamo in campo noi avvocati si sono ormai già verificate, sono quelle che riguardano gli illeciti sportivi, che per fortuna, almeno questo, nella pallacanestro non sono tanto frequenti, mentre nel calcio hanno dato bella mostra, però, mostra di sé negli ultimi anni dal 2006 in avanti da Calciopoli, e il calcio non si è fatto mancare. Però avvocato, io mi esprimo brutalmente, in un caso si era truffato, no, quello della Juventus di Calciopoli eccetera eccetera, anche in questo caso si è in qualche modo truffato, no? C'è stata una truffa, perché è un bilancio, chiaramente sono dei bilanci dopati, e quindi c'è il trucco, cioè hanno vinto imbrogliando, no? Allora, lei ha perfettamente ragione. Allora, prima mi avete stoppato mentre stavo esponendo questo tipo di parallelismo, cioè le indagini della magistratura ordinaria che portano in emersione un illecito sportivo, quindi integrano il reato di frode sportiva previsto dalla legge 401 dell'89, immediatamente hanno interessenze e vengono avvocati anche dalla magistratura sportiva, quindi dalle procure federali delle varie federazioni, per istruire il procedimento che, ove venga poi accertato, fermo il principio di indipendenza dei due ordinamenti, quello sportivo e quello statuale, allora comunque l'indagine ordinaria fornisca alla magistratura sportiva elementi tali da giustificare ed accertare comportamenti finalizzati all'alterazione dei risultati delle gare sul campo, ecco, in questo è il classico caso canonico di scuola in cui poi titoli, promozioni, scudetti e palmarès vengono cancellati. Caso dell'avvocato, mi perdoni. Mentre mi perdoni, l'aspetto amministrativo, la interrompo io questa volta, parlava prima, cioè concordo con lei, ma è un effetto più mediato, non è così diretto. Cioè, lei in buona sostanza sosteneva che l'avere tra virgolette taroccato i bilanci ed avere creato una floridità e una situazione contabile così florida, così perfetta e rispondente ai requisiti anche stabiliti dalla federazione, ha comunque alterato la par condicio di quei campionati, e quindi perché non intervenire? Ecco, bene, questo tipo di prefigurazione, questo tipo di scenario mi trova d'accordo, però bisogna poi fare un passaggio in più, perché in questo caso c'è un'indagine che ha ad oggetto reati finanziari, poi questi reati trasportati sull'ambito del diritto sportivo e del codice di giustizia sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro, se hanno generato una alterazione dei requisiti per l'iscrizione ai campionati o per la partecipazione a quei campionati che Siena ha vinto in condizioni, diciamo, alterate, drogate rispetto alle altre contendenti, ebbene, come effetto indiretto e come, diciamo, previo accertamento di questo tipo di risultato ottenuto da Siena, potrebbero portare anche alla revoca degli scudetti conseguiti. Chiaro, Werther? No, chiarissimo, quella di prima era l'introduzione, l'avvocato già ha risposto praticamente alla domanda vera, a suo personale parere, senza che questo diventi impegnativo in alcun modo, se in quelle cose emerse adesso lui ravvisava anche, ripeto, a suo personale parere, la possibilità o l'opportunità da parte della magistratura sportiva di aprire un'inchiesta per frode sportiva. Ecco, questo adesso che interessa. Ho detto prima che bisogna distinguere la fattispecie dell'illecito sportivo da quello, in questo caso, che potremmo definire illecito amministrativo, e cioè io non conosco diciamo le condizioni attraverso le quali sono state fatte queste alterazioni, sarebbero state fatte queste alterazioni, sempre con il beneficio del dubbio, perché siamo ancora in una fase di indagini preliminari, non c'è nemmeno una sentenza di primo grado. Ebbene, però diciamo così, l'indagine, quantomeno a livello conoscitivo, che una procura sportiva potrebbe aprire in questo caso, sarebbe certamente un segnale quantomeno di attenzione e di serietà rispetto ad un fenomeno che per la magistratura ordinaria ha portato a provvedimenti, diciamo, clamorosi, eclatanti, sicuramente senza precedenti nel mondo della pallacanestro, per quanto la pallacanestro negli ultimi anni abbia vissuto inchieste, indagini anche di natura penale, da Arbitropoli, Basketopoli, partita da Reggio Calabria, alla vicenda del tesseramento Norbeck, che hanno comunque segnato una pagina molto nera della vita della Federazione Pallacanestro. Però oggi, con quel materiale che proviene dalla Procura della Repubblica, certamente l'apertura di un fascicolo di natura esplorativa o conoscitiva, quantomeno per cominciare a verificare se questo rapporto causa-effetto, cioè alterazione dei bilanci, creazione di fondi neri, ha inciso sui requisiti per l'iscrizione ai campionati. Cioè, senza quelle alterazioni Siena avrebbe comunque maturato il diritto di iscriversi ai campionati e ha comunque partecipato alle competizioni in condizioni di parità con le altre consorelle che si contendevano per molti anni, con tanti punti di distanza da Siena, il titolo di campione d'Italia. Ebbene, questo tipo di focus, questo tipo di illuminazione, di faro acceso su questa vicenda, ripeto, senza che ciò significhi nessun tipo di pronunciamento anticipato della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, però visto che la materia è molto complessa, una procura federale come quella della pallacanestro potrebbe certamente prendere in considerazione. Certo. Poi ai giudici ovviamente la risposta, ma ognuno di noi quella risposta io credo ce l'abbia già. Grazie avvocato, grazie mille avvocato Mattia Grassani. Ancora un minuto prima di salutarti, Werther, per un ultimo quesito. Non è che sai, mi viene in mente la parabola, cioè, chi è senza peccato, eccetera eccetera. Assolutamente. Ma probabilmente non sulle elezioni di Minucci, ovviamente. Sì, ovviamente, infatti io su quello ti stavo rispondendo. Probabilmente il vero intento di fondo strategico della sua candidatura e poi elezione era quello di fare una pacificazione a livello però riduttivo, senza risolvere il problema. A Chioso voglio anche dirti che personalmente non sono per non togliere mai niente a nessuno, quindi la storia degli studenti. Ma quello anch'io, tendenzialmente anch'io, perché poi c'è una poi guardiamo l'albo d'oro e da quello parliamoci chiaro, noi affrontiamo un argomento e esprimiamo liberamente delle opinioni, però io tengo a precisare che non sono per togliere niente a nessuno, perché la prima cosa in quella situazione penserei ai tifosi di Siena e alla passione che la città ha riversato e che è un corollario non indifferente dello sport. Ma vedi, secondo me era proprio questo, cioè c'è stato il problema, questa operazione che è quantomeno, ripeto, è stata imprudente da parte dei presidenti, e tu hai visto che oggi quelli più intelligenti stanno in silenzio, imbucati, nel senso che potremmo anche dire dalla vergogna mi nascondo, che è anche dignitoso, no? L'avvocato ha citato, e chiudo magari un ragionamento che è un pochettino fatto in fretta, un po' complesso, ha citato il caso Lorbeck. Se tu ripensi un po' alla storia, alla vicenda della nostra pallacanestro, io lo ritengo il peccato originale che stiamo scontando quando si è iniziato nel basket, come anche nella società civile, a non cercare di essere, di salire, perché si cerca di essere migliori degli altri, ma quando si è cercato di incominciare a indebolire gli altri, e questo ha portato alla scomparsa di Treviso, questo ha portato a dei metodi antagonisti dove sembrava che il fine giustificasse il mezzo, e invece purtroppo non è vero. Ecco, allora questo momento con molta serenità, perché devo dirti un'altra verità emotiva: a me non piace vedere la gente in manette, l'ho detto prima, io confermo la parola shock proprio per questi motivi. Berta, io ti devo salutare perché ho appuntamento con la borsa, ti ringrazio, ti abbraccio, grazie per grazie a te, anche a te, tutti 800 24 00 24, ancora mezz'ora per stare insieme. Ovviamente voglio parlare anche di Giro d'Italia, che parte oggi da Belfast. È un partenza, siamo abituati alle partenze all'estero, eccetera. Un Giro d'Italia in cerca di un protagonista. Tutti convocati. Allora, prima di andare a Belfast, dove sta per cominciare il Giro d'Italia numero 97, oggi cronometro a squadre, che è tutt'altro che un cronoprologo, tutt'altro che una vetrina, è già qualcosa di interessante. Prima di tutto questo, allora, convocato per un giorno Cristiano Marzorati, sentiamo cosa ci ha mandato, sentiamo la sua voce. Salvare il calcio significa mettere al centro i tifosi e non più i soldi. Per fare questo, la cosa indispensabile è toglierlo dalle mani di politici e burocrazia e affidarlo a persone che questo ambiente lo conoscono per averlo frequentato da di dentro, cioè dal campo. Partite tutte alla stessa ora, facilità per tutti di acquistare i biglietti a prezzi accessibili e limita il numero di stranieri in modo da favorire l'identificazione tra il pubblico e la propria squadra. Non è che servono chissà quali rivoluzioni, basta ripensare a com'era questo sport quando ci siamo appassionati e renderlo uguale da allora. Semplice, no? Semplice neanche tantissimo. Caro Cristiano Marzorati, vieni qui a prendere la maglietta la settimana prossima. Ciao! Ciao ragazzi, grazie per la convocazione. Allora vieni, ti aspetto, a parlare di sport, a tutti i convocati, vero? Ci vediamo la settimana prossima. Certo, ci vediamo. Certo, non mancherò per nessun motivo. La ricetta sarà il calcio italiano interessante, non di semplicissima attuazione, non è così facile. Su un punto non sono d'accordo io. Perché il tempo passa, le epoche cambiano, limitare il numero di stranieri non si può. Perché? Perché ci sono delle leggi che non lo consentono. È un mondo professionistico, cioè libera circolazione dei lavoratori professionisti, quindi... Guarda, non so se se lo posso spiegare adesso oppure se, lo facciamo con calma. Lo facciamo con calma la settimana prossima, però okay, ti dico, a me tutto sommato non dà particolarmente fastidio il fatto che di vedere tanti stare in campo. Al massimo livello professionistico mi voglio vedere quelli bravi. Se te li puoi permettere, voglio vedere quelli bravi. In un regime di libera concorrenza. Ma no, No, perché guarda, io ti dico, io sono stato abbonato all'Inter per tanti anni, ti parlo di una ventina d'anni, no? E poi però mi sono rotto le scatole perché non mi sento più rappresentato. Non ti senti più rappresentato perché è una squadra con troppi stranieri, ma questo lo capisco, però non penso che ci sia una ricetta contro questo logorio della vita sportiva moderna. Però senti, ti aspetto qui, è un discorso che a me interessa molto. Poi venerdì prossimo te lo spiego molto bene. Io ti aspetto, ma come no, e convochiamo anche un sacco di ascoltatori per telefono, 800 24 00 24, numero verde. Grazie Cristiano, ci vediamo allora settimana prossima, naturalmente qui su questi schermi, e vale anche per voi. per tutti quanti, perché questa idea continua. Andate sul sito radio24.it, scoprite come si fa a partecipare, inviateci comunque un file MP3 della durata di un minuto con con il vostro commento su un fatto di attualità che noi vi indicheremo naturalmente. Giampaolo da Cesena, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dimmelo. Volevo parlare un po' del caso Minucci, caso Siena, che diventa poi anche un caso Siena, perché certo. E diventa un caso basket italiano, basket italiano, esatto. Io sono tifoso da 40 anni della squadra che ha perso la Coppa Italia contro la squadra che schierava l'Orb, due anni dopo abbiamo perso in volata contro la squadra di Minucci. Ciò non di meno non mi sento di dire che quelle due Coppa Italia le dovevamo vincere noi, perché vedevo schierata in campo una squadra, soprattutto Siena, che era un orologio, che era uno spettacolo da vedere. Ma questo non lo discute nessuno, nessuno discute il merito sportivo di Siena, è anche vero che Siena fa la grande svolta quando prende Sean Storrock da Cantù, probabilmente perché gli può fare un contratto. Allora, la vicinanza con Montepaschi e Fondazione che Cantù non poteva fargli. Allora il discorso è questo, nessuno mette in discussione la bellezza di Siena, quello che ha rappresentato dal punto di vista agonistico, però nessuno mette in discussione, volendo, neanche le scalate di Armstrong all'Alpe d'Huez, perché furono un bellissimo spettacolo, o no? Questo è l'esempio, però la domanda che ti fa. Però se usi il doping, allora cioè, lo usiamo tutti, o lo usiamo tutti, o magari non lo usa nessuno. Però permettimi di spostare un attimo il focus da quello che succede o come è successo a come adesso ci viene raccontato. Allora adesso cosa salta fuori? Che Minucci è quello che era Bettino Craxi 25 anni fa, quello che era Luciano Moggi e tutti gli altri sono sani, oppure ragioniamo sul fatto che a questi siamo arrivati perché c'erano delle indagini precedenti su Montepaschi e che fondamentalmente il discorso dei diritti d'immagine lo fanno tutte le società. Sì, ma questo l'abbiamo sempre detto. E che la prima società, te lo dico, la Virtus quest'anno non l'ha fatta, infatti è arrivata l'ispezione della Comtech un mese fa e hanno trovato qualcosa che non andava perché ha dichiarato tutto. Sì, allora sì. A questo punto cosa facciamo? Tutti quanti le vergini violate? No, assolutamente, ma questo è il discorso che stavamo facendo. Questo è attenzione perché non vorrei vedere una stampa sportiva che nemmeno io che demonizza qualcuno. No, ma non è questione, l'abbiamo detto per anni, questa cosa dei diritti d'immagine era qualcosa di dichiarato, di scoperto, era un magheggio entro certi limiti consentito, no? Quindi depositi un contratto con scritto 100 e poi dici ok, questo è il contratto del giocatore, cifra ufficiale 100, poi quello ne becca 300 perché è questione di diritti d'immagine. Però oggi leggo anche che insomma c'è un giocatore che tutti conosciamo, Sestov Lavrinovic, super campione, che pare abbia evaso, indagato per aver evaso 2 milioni e mezzo di euro. Cioè 2 milioni e mezzo di euro, non stiamo parlando di tre soldi. Ma l'elenco è lungo con le cifre, l'elenco di giocatori, potete andarle a vedere, cioè, tra l'altro Mosca adesso gioca a Milano, ci sono Zizis, insomma un sacco di super campioni, McCaleb, passati per Siena e che prendevano soldi in nero. Questo è il discorso, quindi insomma bisogna anche distinguere sui punti, diritti d'immagine, quella storia lì che conosciamo bene, che abbiamo sempre denunciato, ok, però qui si tratta di qualcosa di diverso. Franco Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare invece di pallavolo. Volentieri. Anche se mi muore il cuore sentir parlare di Siena, che è la squadra di basket per cui tifavo. Vabbè. Sì, ma non è questione di tifo, Sì, avanti la vita continua. No, ma avanti la vita continua, non è questione di tifo, è una cosa che fa male da morire, no? Vedere queste cose. Pallavolo, dica. Allora, io volevo capire se perché nella nazionale di calcio va dentro Romolo, Paletta, Thiago Motta, e in quella di pallavolo non si può usare magari Juan Torena o Simon, che sono italiani allo stesso punto di Romolo, Paletta e Thiago Motta. Visto che ci sono i mondiali anche quest'anno, anche di pallavolo, oltre a quelli di calcio. Sì, più giocatori abbiamo forti, meglio è. Sì, se sono, io ho sempre sostenuto che se i documenti sono in regola, regola e questi sono eleggibili per la nazionale, è giusto chiamarli. Però anche nella nostra nazionale, Tai Agüero, per esempio, che ci ha fatto vincere qualcosina sul fronte femminile, non era nata a Quinto Stampi. Ma abbiamo avuto casi anche sul fronte maschile, Zlatano, eccetera, eccetera. Ma qualche caso c'è. Poi sono discorsi di eleggibilità, sono anche regimi diversi. Allora possiamo dire che nel rugby sono stati a lungo, abbiamo avuto questa lunga storia con gli argentini, perché ogni sistema ha delle sue norme. Detto questo, io continuo ad essere favorevole alla eleggibilità di giocatori nati altrove, perché questo è il mio pensiero, a me non dà fastidio per nulla. Allora, traffico, poi a Irlanda. Tutti convocati. Dovessi puntare su qualcuno la palla vigilia alla partenza del Giro d'Italia, punterei sicuramente su Rodriguez. L'acqua al vento è pericoloso, però è pericoloso per tutti, e io spero soprattutto che non succeda niente, non solamente a me, sino a nessuno, perché non sarebbe bello cominciare il giro così. Penso che anche la corsa perde un po' di spettacolo. Voy como favorito, pero también hay otros corredores que hay que tener muy en cuenta, y lo hemos visto ahora en la rueda de prensa. Estoy muy contento de poder participar en este Giro de Italia y poder luchar por la victoria. Nell'ordine Scarponi, Rodriguez e Quintana, tre dei favoriti di un Giro d'Italia al momento senza padrone. Pier Augusto Staggi, che ce lo racconterà ogni giorno, ovviamente in tutti i convocati, ma con due appuntamenti specifici: la sera dopo il GR delle 18 e la mattina dopo il GR delle 7, per essere sempre ovviamente in prima fila sul traguardo. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Com'è lì a Dublino? Bene, al momento tiene il tempo. Freddo cane? Strada asciutta, strada asciutta. Sì, nonostante tutto c'è stato già anche un bel volo, la BMC era in ricognizione del percorso e c'è stato un incidente, niente di grave, però una brutta caduta per Buchwalter, che ha twittato, dovrebbe essere tutto ok, farà parte della gara. È un uomo, una pedina fondamentale per questa cronoscorre, sì. Chiave Cadeleans, se ne parla poco, si parla pochissimo di Daniel Martin, che è il nipote di Stefan Roche. Si sta parlando tantissimo di Nicolas Roche, il figlio di Stefan Roche. E invece secondo me la sorpresa di questo Giro d'Italia, in chiave straniera, purtroppo tanti stranieri, è Daniel Martin, che è un gran bel corridorino. L'anno scorso ha vinto, per ricordare, ha vinto la Leggi Bastogliese, e quest'anno per poco all'ultima curva non bissava la Liegi Bastogliese. In realtà poi è caduto clamorosamente, ha buttato via veramente all'Ortica, è gettato all'Ortica la sua seconda Liegi Bastogliese. Senti, ma c'è chi dice, secondo me farà un bel giro. C'è chi dice su un versante, il Giro d'Italia che parte un po' in sordina, non ci sono grandi protagonisti, non ci sono superstar, soprattutto non ci sono superstar italiane. Sull'altro fronte c'è invece chi dice: boh, Giro d'Italia apertissimo, ad ogni sorpresa qualcosa esploderà, qualche nome fiorirà, qualche impresa la vedremo, insomma vedremo delle cose nuove. Tu dove ti metti? Io mi metto che in realtà è un po' sordina per noi italiani, non tanto perché mancano le stelle, ma perché manca l'italiano di riferimento, che è Vincenzo Nibali. Quindi questo, ahimè, purtroppo dobbiamo farcene una ragione, diciamo, speriamo di divertirci a luglio. Io spero che questo Giro d'Italia sia una bella palestra per i corridori italiani, per i giovani corridori italiani, che devono anche un po' osare. Rimarrei profondamente deluso se li vedessi lì tirare solo per il capitano. Ad esempio Aru, spero che a un certo punto magari così, uccida il padre, in questo caso il padre è Michele Scarpone, uomo d'esperienza, ha vinto un Giro d'Italia a tavolino, però l'ha vinto meritatamente perché comunque era secondo alle spalle di Alberto Contador. Io spero che Fabio Aru, che questo ragazzo di 23 anni, sardo trapantato in provincia di Bergamo, abbia la forza e la voglia di mostrarci qualcosa di più del giro dell'anno scorso. Insieme a lui spero che si facciano vedere Mattia Cattaneo, che si facciano vedere Diego Lissi, Battaglini. Abbiamo di giovani interessanti, devono usare. Ah, certo, spero che non stiano lì veramente a contare le energie e dire no, ma l'importante è finire. L'anno scorso ho finito 45esimo, quest'anno ci vuole personalità. Se ci vuole personalità, se no personalità e soprattutto un po' di baldanza. Se ma non sicuro. Hai un po' di spregiudicatezza da se ragazzo, fai ragioniere, insomma, non fai lo sportivo. Se vuoi fare il ragioniere, vai in banca. Non vai al Giro d'Italia. Mi raccomando, d'accordo. Voglio ragionare al Giro d'Italia. No, anzi, campagna, inauguro la campagna con tutti gli ascoltatori, campagna, niente ragionare al Giro d'Italia, i ragazzi che hanno talento, fuori le palle, pedalare, attaccare, farsi vedere e magari anche far arrabbiare il capitano, perché questo ci può anche stare. Sono un po' tu. Come fece qualche anno fa Cunego con Gilberto Simone, no? È stato un giro bellissimo. Sarebbe troppo, perché quello sarebbe veramente toccare un cielo con un dito, però c'è anche una via di mezzo, quindi ogni tanto fateci vedere qualcosa. Sì, fateci vedere qualcosa. Attaccate. Tanto le salite ci sono, come sempre, sono le più belle del mondo. Grazie Pier, ci sentiamo ovviamente tutti i giorni qui. Ricordo gli appuntamenti dopo il giro delle 18, dopo il giro delle 7 e ovviamente tutti convocati con Pier Augusto Stagi e con il Giro. Chiudiamo adesso con il migliore in campo di oggi, maglietta griffata, tutti convocati per... Sentiamo anche Paolo da Verona e poi chiudiamo qui la prima ora. Paolo, buongiorno. Buongiorno, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Ecco, intervengo anch'io sui social network, nel senso che io sono una persona che lavora nei social network, quindi sentivo la discussione molto interessante prima e volevo aggiungere un po' il mio contributo, nel senso che è importante il numero di fans, ma poi il parametro principale per capire se queste cose che si scrivono hanno impatto sulla rete è andare a vedere qual è l'engagement, cioè quanto interesse c'è sul contenuto. Quindi si potrebbe aprire tutto un altro scenario di analisi comportamentale di come questi strumenti possono essere interessati e utilizzati in modo specifico, sia dai singoli giocatori che dalle società, cioè, certo. c'è tutto un mercato dell'analisi che è estremamente, estremamente interessante. Ecco, volevo dare questo taglio tecnico. Beh, la ringrazio, così il professoroni, Pierluigi, vi ringrazio tutti perché mi hai preparato. Allora, questo è il mio rincampo di oggi. Adesso chiudiamo qui la puntata, settimana che non è stata divertentissima per vari motivi, cioè siamo divertiti come sempre, però non sono stati argomenti particolarmente sexy in questa settimana. Franco Piantini, autore di questo programma, con Claudio Schiattoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia, che vi ha preparato il recap della settimana, il meglio della settimana di tutti i convocati. Noi ci sentiamo lunedì alle 2, ciao a tutti. Giampaolo Ormezzano, ciao, buon pomeriggio. Io sono amico di Fassino, so benissimo che è gofo, come io sono non gofo, lui lo sa, ci stiviamo. Ieri, fino a che non ha perso il senno, che avevano bottiglie, pietre e insulti, fino a che non ha perso il senno si è comportato perfettamente. Il calcio non è più uno sport e neanche un gioco, è un portaio. Quando finché non diciamo questo andiamo avanti, facciamo gli stessi discorsi che un anno fa, due anni fa, tre anni fa. È un portaio, se non abbiamo la forza di eliminarlo siamo dei porci. Quelli che vogliono primeggiare vogliono essere i primi porci. Tutto il resto è bla bla bla, va bene? Io saluto e ringrazio un grande scrittore italiano come Sandro Veronesi, ciao. Ciao. Sai, di schiaffoni quest'anno se ne sono presi. Io che sono un oventino di Prato ho preso 4 schiaffoni a Firenze che hanno fatto male. Secondo me sono proprio questi gli stimoli che non mancano alla Juventus dell'anno prossimo. se avesse vinto tutto, superiore in tutto, allora sì che uno potrebbe pensare al caos calmo di cui parlate voi, cioè un'entropia di vittorie dalla quale si esce male. Ma qui ci sono cose da riscattare, e siccome non mi sembra che ci sia nessun malcontento di fondo, perché saremmo pazzi a essere scontenti dopo 3 stagioni del genere, è soltanto un legittimo desiderio, forse anche dovere, di migliorare. Ciao Graziano Rossi. Ciao, ciao. A me mi viene un po' da ridere, perché vedere questo ragazzino Penati correre mi dà proprio una grande gioia, perché è determinato come nessun altro e non sbaglia mai. È un ragazzino meraviglioso questo. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?